Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio, di Federico Taddia e Telmo Pievani. Ben ritrovati e buon anno da Federico Taddia e Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao, ben trovato. Bello ritrovarti qui anche nel 2017. 2017 che tenteremo di anticipare con le parole complesse, parole che ci accompagneranno, parole che abbiamo scelto di narrare, spiegare in anteprima, di fatto, ai più piccoli. Sono parole che ben conosciamo, ma che sicuramente ci accompagneranno anche nel nuovo anno. E iniziamo con una parola, insomma, che è un carico di immagini che ben conosciamo, ahimè. Questa parola è rifugiato. Da rifugio. Io direi che quindi è una parola che ci fa capire che purtroppo anche nell'anno nuovo ci saranno molti nostri simili su questo pianeta che non avranno un luogo dove avere rifugio, cioè che hanno bisogno di cercare un posto in cui trovare rifugio perché la loro terra, il loro luogo dove vivono non è ospitale. E partiamo anche oggi dando la voce alle bambine e ai bambini. Loro ci hanno detto chi è un rifugiato. I rifugiati sono quelli che si rifugiano, ad esempio quando c'è la guerra nel loro paese, emigrano, sono qui si rifugiano in Italia o in altri paesi. Persone che scappano da guerre, scappano da qualcosa che li fa soffrire, diciamo che gli fa paura. Quando qualcuno si rifugia da qualcosa vuol dire che ha paura e che si nasconde, forse perché ci sono terroristi, ci sono esplosioni di bombe, ci sono cattivi, altri invadono il paese. Penso che in quel posto dove prima stavano, cioè, non era possibile vivere. Queste sono le definizioni di rifugiato che ci hanno dato i nostri giovanissimi ascoltatori. Per capirne di più abbiamo invitato Carlotta Sami, che è portavoce del Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ciao Carlotta, benvenuta a Terra in Vista. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Carlotta, riusciamo a dare una definizione, a spiegare ai più piccoli chi è un rifugiato? Beh, i bambini hanno colto nel segno perché hanno detto chi fugge. La definizione esiste ed è data da una convenzione, la Convenzione di Ginevra, che è stata siglata da praticamente tutti i paesi del mondo, tranne qualcuno, c'è ancora qualcuno che non l'ha fatto, ad esempio la Libia non l'ha mai fatto, e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà i rifugiati ci sono sempre stati. Qualche giorno fa il principe Carlo in Inghilterra ha detto: ricordatevi che Gesù era un rifugiato. In effetti Gesù con la sua famiglia erano in fuga. I rifugiati sono tutte quelle persone, bambini e adulti, che soffrono una violenza tale nel proprio paese, o perché c'è una guerra, o perché c'è il terrore, o perché vengono perseguitati per le loro idee, vengono perseguitati per il modo in cui loro vogliono vivere, ad esempio anche perché sono omosessuali, ad esempio nel loro paese non viene accettato, e non riescono a trovare protezione nel loro paese, non c'è nessuno che li può proteggere, quindi sono costretti addirittura ad uscire dal paese e chiedono quindi di essere protetti fuori da un altro, un paese che spesso però è anche vicino a loro, sperano. Se non la trovano, continuano il loro viaggio. Quindi sono persone che scappano, ma e che cercano anche comunque un porto, un dove andare, non è solo una fuga. Loro anche scappano proprio per questo, altrimenti non fuggirebbero, cioè sono arrivati, non è una, diciamo, non è una scelta. Alla fine la scelta è fra scappare per trovare protezione oppure morire sicuramente nel loro paese. Questa è la scelta davanti, il bivio davanti al quale si trovano. Quindi rimanere nel paese e rischiare di morire, o talvolta veder morire anche i propri familiari, i propri figli, oppure scappare, ma fino a che non trovano una protezione chiaramente sono costretti a continuare a muoversi. Carlotta, scusami, i bambini nella loro definizione di rifugiati, anche adesso noi la stiamo associando sempre, giustamente, a una fuga dalle guerre, dal terrorismo, ma non sarebbe più giusto considerare rifugiati tutti coloro che emigrano per forza, cioè che sono obbligati? In fondo uno che scappa dalla sua terra d'origine, in cui non c'è più l'acqua, che è diventata un deserto, so che è molto complicato, ma non è un rifugiato anche quello a tutti gli effetti? Nella tua domanda richiami proprio uno degli aspetti, diciamo, più difficili che ci troviamo ad affrontare negli ultimi anni, cioè quello delle persone che scappano perché il clima sta cambiando, quindi i cosiddetti rifugiati climatici, che effettivamente non sono inclusi dalla Convenzione di Ginevra, ma che pongono un problema molto, molto grave, perché sono milioni e milioni di persone. Noi pensiamo che innanzitutto bisogna, visto e considerato che oramai ci sono almeno 10 conflitti pazzeschi che stanno producendo centinaia di migliaia di morti e situazioni di terrorismo veramente intolleranti in molti paesi, dobbiamo assicurarci che queste persone ricevano protezione e i paesi che li aiutano anche siano sostenuti. Ma dobbiamo anche lavorare su questo e si sta facendo a livello di Nazioni Unite, infatti a settembre si è proprio considerato di voler intervenire radicalmente a sostegno di queste persone. Certo, dobbiamo pensare che i rifugiati di questo tipo sarebbero probabilmente centinaia di milioni di persone, perché i paesi che subiscono danni gravissimi, disastri ambientali a causa dei cambiamenti climatici sono moltissimi e questi disastri si ripercorrono ogni anno, quindi sappiamo che il tema dei rifugiati e di chi fugge da violenza o da cambiamenti climatici è quello che investirà sicuramente tutta la nostra epoca e i decenni a venire. Carlotta, il 50% dei rifugiati in tutto il mondo sono bambini. Bambini, tu ne hai incontrati migliaia in questi anni di lavoro, anche sul campo. Cosa vedi nei loro occhi? Sanno perché stanno scappando? Sanno dove stanno andando? Si fidano degli adulti con cui sono? È difficile, lo so, generalizzare, però cosa cogli nei loro sguardi? Guarda, la cosa che a me ha sempre colpito di più nei bambini è che i bambini non sono, o meno, non appaiono o non vogliono apparire particolarmente vulnerabili. I bambini che scappano, che si trovano in quella situazione, non piangono. Non fanno mai un capriccio, sono bambini che si portano sulle spalle tutta la responsabilità della difficile situazione che stanno vivendo, capiscono immediatamente che quello che stanno vivendo è terribile, purtroppo questo è un trauma che li segna profondamente, anche se lì per lì magari si mettono a giocare, appena hanno la possibilità cercano di divertirsi con gli altri, ma in realtà sentono tutto il dramma che i loro adulti stanno facendo. Io mi sono trovata in situazioni molte volte in cui, parlando con i rifugiati, il padre e la madre scoppiavano in lacrime e i figli li consolavano. Questi sono i bambini dei rifugiati. Saranno degli adulti che porteranno in sé il trauma e saranno degli adulti che sapranno, come dire, qual è tutto il peso della responsabilità. Non sarà facile la vita per loro. È per questo che bisogna trovare sempre il modo comunque di dargli degli spazi in cui possano veramente essere bambini fino in fondo, primo fra tutti la scuola e il gioco, in modo tale che loro non debbano assistere costantemente al dramma dei genitori che non riescono a dar loro quello che sanno sarebbe naturale, e quindi poter crescere essendo veramente bambini, e sono tanti, veramente tanti. In questi campi, in queste tendopoli che vediamo, in queste baraccopoli, in queste situazioni di emergenza, c'è tempo e c'è spazio per il gioco? Sì. Intanto i bambini lo spazio e il tempo per il gioco lo trovano subito, anche seduti per terra su una banchina di un porto riescono a trovare immediatamente il modo di giocare, anche solo con due dita giocano i bambini. Il tempo si deve trovare, la cosa importante è che di fronte alla situazione devastante in cui ci troviamo adesso, perché veramente dalla Seconda Guerra Mondiale non avevamo mai visto una situazione come questa, per numero di conflitti e numero di persone che sono costrette a scappare, però adesso si è capito una cosa, che non basta tirare su i campi, mettere i prefabbricati e poi lasciare le persone così, no, bisogna innanzitutto portare subito la scuola e subito delle persone immediatamente che si prendano cura degli aspetti psicologici. Dei bambini subito sicuramente, ma non dimentichiamoci ovviamente le donne e anche gli uomini. Gli certo. Uomini spesso, non dimentichiamoci che sono quelli che magari fuggono dalla guerra perché sono stati rapiti o perché sono stati costretti ad arruolarsi da varie milizie, quindi insomma anche loro vivono dei traumi gravissimi e devono essere in grado poi, quando sono salvi, di vivere in famiglia in un modo tranquillo, in un modo che sia equilibrato, altrimenti veramente anche la fase di integrazione diventa molto difficoltosa. Un grazie davvero a Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Carlotta, grazie per essere stata con noi e buon 2017. Grazie, che sia un buon anno, veramente. Ciao, grazie, un abbraccio. A voi. Ringraziamo Carlotta Sami, abbiamo capito che cos'è un rifugiato e adesso, come sempre, i racconti e le storie del nostro filosofo della scienza, Telmo Pievani. Ma guarda, io per inaugurare l'anno nuovo ti direi questo, ti racconterei la storia del fatto che siamo migranti da 2 milioni di anni. Tantissimo. Sapevi? Da un sacco di tempo, perché i gruppi umani si spostano e cercano rifugio, come abbiamo detto prima, da un sacco di tempo. Siamo usciti la prima volta dall'Africa 2 milioni di anni fa e poi una seconda e poi siamo arrivati noi, Homo sapiens, anche noi siamo usciti dall'Africa e uscendo abbiamo trovato i discendenti di quelli che sono usciti prima, abbiamo incontrato molte altre forme umane con le quali abbiamo convissuto e, sorpresa recente, con le quali ci siamo anche unite in matrimonio, perché ci siamo accoppiati dando origine a una prole ibrida. Quindi, come vedi, le specie umane si sono mosse e hanno cercato rifugio da sempre. Una domanda interessante alla quale forse proveremo a rispondere quest'anno è: ma chi si è spostato? Chi si spostava prima? All'inizio i vincitori, cioè quelli che avevano bisogno di nuovo spazio, i colonizzatori, i conquistatori. Poi da un certo momento in poi iniziano a spostarsi invece i poveri, quelli che invece devono cercare rifugio, un futuro migliore, i perseguitati dalle guerre, dalle dittature. Però qualcuno, qualche demografo, sta facendo notare una cosa interessante. Comunque, anche quando si spostano gli ultimi, si spostano quelli che hanno risorse, che hanno voglia di un futuro migliore, quelli che non si sono arresi, quelli che hanno voglia di riscatto. E tanti paesi hanno usato anche queste persone, soprattutto queste persone, anche se poverissime, che avevano voglia di un futuro, per diventare grandissime. Pensa agli Stati Uniti, come sono stati capaci di usare questo desiderio di riscatto dei migranti e dei rifugiati per trasformarlo in una grande forza. Potrebbe essere un suggerimento. Comunque la speranza, la curiosità e anche la necessità, ma da sempre, appunto, la nostra specie è una specie che emigra, è una specie che si muove. Ringraziamo come sempre Telmo Pievani, ringraziamo Paolo Corleone alla parte tecnica, Paola Manduca che con noi ha scritto la puntata. Saremo insieme ogni giorno, quattro parole per raccontare questo 2017, quattro parole che hanno ispirato anche la fantasia di Bruno Tognolini. Da rime raminghe chiudiamo con la sua voce che ci legge Rima dei figli del mondo. Tu figlio di chi sei? Son figlio di due stelle, nel cielo ce n'è tante, ma le mie sono le più belle. Tu figlio di chi sei? Del sole e della luna, non splendono mai insieme, cala l'altro e sorge una. Tu figlio di chi sei? Son figlio del villaggio, 10 madri, 20 padri, 100 cuori di coraggio. Tu figlio di chi sei? Di un grande albero solo, ma così alto e forte che da lui io spicco il volo. Tu figlio di chi sei? Di un amore, di un viale, di un bue, di un asinello, di un dio, di un ospedale. Il nostro nome è uomini. Siamo figli e figliastri di altri figli degli uomini, della terra e degli astri.